per la relazione dei sindaci. Si prepari Corradin Giorgio. Intanto vi ricordo che la commissione ha iniziato, verifica potere, ha iniziato a lavorare dietro nella saletta, dietro al bar. Uno, due per volta, contatevi, non scappate tutti. Dottor Blandino. Chi dica? Qui c'è la bandiera a te, ancora di Daniele. Ah, no, sta lì, guarda, aspetta qua. Se non ce l'avevamo, te la fregavo. La lasciali qua, Sì. Grazie alla Presidenza, al tavolo della Presidenza che vedo consistente e a tutti i presenti. E sono arrivato da poco, ma ho sentito alcuni questi ultimi interventi che mi hanno fatto capire bene lo spessore di questo incontro, a partire da quello accorato dell'amico Emilio fino a questa simpatica esposizione dei concetti rinascimentali che ho apprezzato molto. 4 anni fa c'è stata l'elezione di questo collegio sindacale assieme agli amici Silvano Fortina e Renzo Molini, che ringrazio, con cui abbiamo lavorato molto bene. E era un giorno di nebbia, era un giorno molto umido e piuttosto uggioso, però è stato anticipatore di un quadriennio per la FNP, direi efficace, produttivo, utile, perché la FNP è in salute dal punto di vista dei numeri, parlando in senso numerico. Quindi anche il fatto che oggi ci sia questo sole è un buon auspicio perché ci sia un quadriennio sicuramente almeno altrettanto buono. Potete stare certi che i conti della FNP sono buoni, sono stati tenuti bene, e ovviamente se i conti quadrano è perché c'è un'amministrazione efficiente. Se i conti sono ben tenuti e esprimono quelli che sono i fatti amministrativi dell'ente, è perché c'è un nucleo che funziona. Quindi in questo mi sento di ringraziare e dire bravi a Mario Vibaudo e a Adriana Sizia, che è un riferimento un po' per tanti per quanto riguarda l'amministrazione. Ho apprezzato anche molto questo titolo del convegno, Rinascimento di un nuovo sindacato. Io non ne faccio una questione storica, però penso anche che il Rinascimento è stata un'epoca fervida di idee, di creatività, di nuove iniziative, e Rinascimento che fa anche rima con cambiamento. Ne ho sentito parlare, ho sentito questa parola negli interventi che mi hanno preceduto, e in effetti è questo il punto importante che leggo in questo titolo, Rinascimento inteso come un qualche cosa che la FNP sta registrando che cambia, e anche i numeri, quindi dal nostro punto di vista, facendo un parallelismo con i numeri, ce lo stanno dicendo, perché le entrate dal primo anno del quadriennio all'ultimo sono passate da 895 a 735, con una riduzione del 18%. I costi sono passati da 818 a 746, che quindi registrano sì una diminuzione di circa l'8%, però è una diminuzione inferiore a quella delle entrate. Quindi significa che, ad esempio, i contributi sindacali regionali da federazioni di categoria, territoriali di categoria, non che si riducono di circa il 10%, si riducono di più della riduzione delle spese. Quindi questo significa che da un primo anno del quadriennio con segno più, il risultato di gestione, ricavi meno costi, entrate meno uscite, siamo passati la FNP registra un meno sia l'anno scorso che anche quest'anno. Questo non deve preoccupare, perché fa parte delle cose che ci siano degli anni contabilmente migliori rispetto ad altri, però, così come non bisogna vivere sugli allori quando ci sono dei segni positivi, nello stesso tempo non bisogna avere delle ansie o delle preoccupazioni quando i segni sono negativi, ma danno un segno, sono un segnale, c'è qualche cosa che sta cambiando. Ecco, quindi il parallelismo è tutto qui. Anche i numeri stanno dicendo che la FNP è in un attimo, in un momento di riflessione, e ho sentito degli interventi precedenti che l'intenzione c'è, cioè si sta capendo che qualche cosa sta succedendo nel mondo. In effetti il cambiamento esiste a tutti i livelli, ormai è già iniziato, si parla di cambiamento, ma è già iniziato, siamo già nel cambiamento. Allora, io credo che si tratta di prendere non solo atto di questo, che il cambiamento c'è, è già avviato, ma anche di precederne gli effetti, sapendo creare magari anche nuovi ruoli all'interno stesso della struttura. E qui mi fermo e vi lascio riflettere su questo aspetto. Vi ringrazio e saluto. Grazie Presidente. Adesso sarà il Presidente di tutte le FNP del Piemonte e quindi viaggeremo tutti e quattro insieme nel calare i conti.